como de uno. Celebrando. Fausta fina nell'ora, orrore dei secoli fermati, scura luce sui muri, placati la via preghiera. Promisco muro nero, nuvola nera, misericordia per noi. Viaggiatori nelle tempore, storie di Blue.